e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, Deborah. Eccomi. Ecco. Presente, vuoi fare duo? L'appello? Cioè, sì. Allora, Rosciani, duo, presente. Rosciani, sì. Roscianina, presente. Il duo si è ricomposto. Certamente. E oggi? Oggi andiamo a scuola di nuovo perché la maestra è tornata. No, veramente la maestrina. Ah, tu maestra, io maestrina. Certo, io sono più alta e quindi sono dentro il termine quello più ingombrante. Allora, oggi? È la giornata della scuola del risparmio. Ti anticipo già cosa faremo certo. Nella seconda parte del programma. Allora, come tu sai, siccome io sono la venditrice dei fondi comuni di investimento oltre che maestra, a parte gli scherzi, questo è un mondo che è diventato molto complesso, l'industria del risparmio gestito. Peraltro, attenzione che ad aprile c'è di nuovo il Salone del Risparmio, andremo là io e Nicoletta come al solito con un sacco di cose paillette, da fare, lustrini, assolutamente. Allora, i fondi sono tanti, sono passati gli anni in cui c'erano solamente gli azionari, gli obbligazionari, i bilanciati eccetera. Adesso ci sono i multi asset, gli absolute return, i total return, uno con un nome italiano, esatto, no. Allora, cosa ci siamo detti con l'ospite che vi presento più tardi? Facciamo un po' di chiarezza, di traduzione, e invito gli ascoltatori a prendersi magari il prospetto informativo del fondo che hanno in casa, che hanno sottoscritto, su cui risparmiano. Se non avete capito alcuni termini e cosa si cela dietro la politica di investimento, noi oggi proveremo a rispondervi. Quindi vi vogliamo attenti. Vigili. Partecipativi, sì. Ecco, sì. Allora, voi vi sentite bene, tutto a posto, avete fatto una buona colazione. Noi tra l'altro abbiamo delle ricette straordinarie per delle colazioni sprint, ricordatevi di aggiungere sempre un po' di proteine, le trovate tutte sulle pagine, ma soprattutto voi avete riposato bene questa notte, perché guarda, lì cambia la vita, perché tutti lo sappiamo per esperienza diretta, rendiamo bene se riposiamo bene, se abbiamo una buona qualità del sonno. Su questo non ci piove, siamo tutti consapevoli, tanto che chi non dorme si attrezza. E cosa fa? Cerca di trovare delle soluzioni che sono più o meno valide per recuperare. Tra l'altro, Deborah, ha letto proprio, ormai mi stai contaminando, mi ha dato l'occhio. Contaminando, non sul... condizionando, proprio la contamino. Contaminando, perché sono andata a vedermi i dati di Federsalus sul mercato degli integratori, un mercato assolutamente fiorente, soprattutto quello relativo alla categoria riposo notturno, relax e dintorni, un valore di 79,5 milioni di euro in crescita dell'8,5 rispetto all'anno precedente. Pazzesco, perché chi è che non ricorre magari ai rimedi? Quelli erano considera... i tempi della camomilla. Brava, poi c'è la valeriana, la passiflora, la melatonina, insomma. Dato che l'insonnia è un problema molto diffuso e sorprendentemente dorme poco e male chi lavora regolarmente a casa, quelli che lavorano a casa in pigiama. Basta, che non ti venga più in mente la sera di aprire il PC per sistemare la scaletta del giorno dopo. C'è un'indagine che ha misurato la qualità di vita delle persone che lavorano in casa oppure telelavorano, e quindi non solamente lavorano in pigiama. Beh, nell'era dello smart working è interessante. Lo smartphone, il tablet, il computer per scopi lavorativi fuori dall'ufficio. Bene, sembra che la qualità del loro sonno sia decisamente peggiorata, come quella dei nostri bambini. Una indagine che è fatta dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, quindi un'analisi fatta su oltre 2000 bambini, che ha tra l'altro un nome bellissimo, Ci piace sognare, rileva che solo il 68% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato. Così i genitori che fanno? Si affidano ai rimedi naturali, tra cui la melatonina, di cui si discute molto in America perché il consumo è molto diffuso, viene data ai bambini. Molti genitori, anche italiani, somministrano questa sostanza ai loro bambini proprio perché la percepiscono come naturale. E allora anche di melatonina parleremo oggi, soprattutto per capire quali possono essere i suoi effetti a lungo termine nei bambini e in chi bambino non è più. Quindi restate con noi, ne parleremo tra poco nella nostra trasmissione, in cui come sempre commenteremo tante notizie che arrivano dall'attualità e da cui prendiamo spunto per confrontarci, suggerire indicazioni, consigli per imparare a stare bene. Intanto salutiamo la nostra ospite di oggi, che è tornata a trovarci, la professoressa Laura Fugazzola, professore associato di endocrinologia all'Università di Milano. è responsabile del centro tiroide dell'Istituto Oxologico Italiano di Milano. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, ben ritrovate. Siamo vicine di casa ormai, ma soprattutto potete avvicinarvi alla professoressa Fugazzola molto rapidamente a portata di click, tiroidemilano.it, un sito che noi segnaliamo, mettiamo anche il bollino blu perché è un sito veramente ricco di tantissime notizie. Professoressa Fugazzola, dormiamo poco e male, è un problema diffuso, i motivi sono tanti, ma il sonno, la sonnolenza, la difficoltà di concentrazione, così come il pensiero un po' rallentato quando ci sentiamo storditi e quindi lo scarso rendimento lavorativo e scolastico, possono essere anche spie degli SOS con cui la nostra tiroide ci segnala di aver perso il ritmo, cosa che sembra abbastanza frequente per questa piccola ghiandola che, nonostante le dimensioni, ci tiene in pugno, perché è una specie di centralina elettrica. Se non funziona, tutto il corpo ne risente. Professoressa Fugazzola. È vero, effettivamente la tiroide ha, pur essendo così piccola, ha tantissime proprietà, gestisce nel feto, addirittura si occupa dello sviluppo psichico e dello sviluppo neuromuscolare, scheletrico proprio del bambino durante tutta la gravidanza, e nell'adulto anche presiede a tantissime funzioni, regola la funzionalità del cuore, dell'intestino, regola il nostro umore, regola le nostre capacità intellettive, e quindi sicuramente una alterazione della funzionalità tiroidea può portarci dei problemi, tra cui questi di cui parlavi tu, Nicoletta. Abbiamo parlato di sonnolenza, abbiamo parlato di mancanza di concentrazione. Noi dobbiamo essere concentrati soprattutto oggi per la nostra scuola di risparmio, ma non solo, ma anche per tutti. Però i segnali di un'eventuale disfunzione della tiroide, professoressa Fugazzola, sono tanti e diversi. Noi spesso li tiriamo in ballo quando non riusciamo a perdere peso, oppure quando i capelli, le unghie si spezzano, siamo particolarmente irritabili. Il più delle volte la tiroide non c'entra, però è un ottimo capo espiatorio. In ogni caso ci aiuta, no? pur danneggiandoci un po' ci aiuta. Ma professoressa Fugazzola, ci aiuta lei a capire quali sono i segnali che ci dovrebbero spingere a fare un controllo? Perché poi la tiroide è un po' subdola e in fingarda, però la si sgama subito, perché verificare il suo funzionamento è davvero molto semplice. Esatto, nel giovane, nel bambino, è veramente qualunque alterazione della concentrazione a scuola, del rendimento scolastico, soprattutto dei problemi nell'accrescimento, un bambino che si arresta nella sua crescita, bisogna sempre pensare, soprattutto se c'è una familiarità per patologie tiroidee, che potrebbe essere la tiroide che funziona troppo o troppo poco. Nell'adulto la sintomatologia più frequente è sicuramente la stanchezza, quindi una stanchezza immotivata, a volte anche sonnolenza, possono essere un chiaro indicatore di ipotiroidismo, ma anche di ipertiroidismo, perché anche nell'ipertiroidismo abbiamo una sovrastimolazione di tutta la nostra funzionalità e quindi il paziente si sente stanco. Quindi più di tutto quello che noi troviamo adesso è la stanchezza, perché riusciamo a fare delle diagnosi precoci. Poi un altro segnale molto importante nell'ipotiroidismo è l'ipercolesterolemia. Quindi questo è facile trovarlo, perché il medico di base, spesso il medico di medicina generale, prescrive tra la routine anche la colesterolemia. Un colesterolo particolarmente elevato, immotivato, potrebbe far pensare a una ridotta funzionalità tiroidea. Spesso pensiamo che sia colpa della tiroide quando ci mettiamo a dieta, ma l'ago della bilancia non scende. Ma oltre che alla dieta, abbiniamo anche un esercizio fisico in palestra, ci impegniamo. Ecco, voi invitate, quando queste condizioni si verificano, soprattutto quando facciamo esercizio fisico, andiamo in palestra, non caliamo di un centimetro, facciamo un sacco di fatica, però nulla si muove, avvertiamo solo questa grande fatica e questa insoddisfazione, di controllare gli ormoni tiroidei, perché se la nostra tiroide non funziona bene, andare in palestra potrebbe quasi essere un autogol. Sicuramente se la tiroide non funziona bene, ci sono delle difficoltà a perdere peso, naturalmente in presenza di un'adeguata dieta e dell'esercizio fisico, e il rendimento anche di un'attività sportiva è sicuramente ridotto. Addirittura invece nel caso opposto dell'ipertiroidismo può essere pericoloso fare attività sportiva, perché un cuore già sovrastimolato dall'eccesso di ormone tiroideo, se in più viene sottoposto a un esercizio fisico, naturalmente può avere qualche problema. Allora, se vi riconoscete, se restate con noi per saperne di più, se già sapete tutto chiamateci, diteci magari come avete scoperto di avere un problema alla tiroide e in quanto tempo, e quanto tempo ci hanno messo i medici per arrivare alla diagnosi. Chiamateci anche se state seguendo la terapia sostitutiva e non vedete i risultati sperati, avete dei dubbi, qualcosa non funziona. Nell'attesa noi ci facciamo una brevissima rassegna stampa. E noi ritorniamo a parlare di meningite, perché a ogni caso riportato dai giornali l'asticella della preoccupazione sale, i medici mandano messaggi rassicuranti, ma intanto noi salutiamo il professor Roberto Burioni, medico ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, che è tornato a trovarci, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie. Buongiorno. Allora professore, noi ci sentiamo spesso, non è emergenza, ma la corsa ai vaccini è partita, non sembra arrestarsi, perché quando, lo ripetiamo spesso, le malattie si vedono in faccia, cadono molte resistenze. È una cosa giustissima, per la meningite non c'è nessuna emergenza, il numero di casi è in linea con quello degli anni precedenti, ma è una malattia molto grave, così come sono gravi gli incidenti stradali, quindi dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo, per quanto riguarda gli incidenti stradali, guidare con prudenza. Per la meningite dobbiamo vaccinarci, anzi, quando portiamo i nostri bambini a vaccinare per la meningite, pensiamo anche a tutti gli altri vaccini, perché ci sono tante altre malattie altrettanto pericolose che possono essere evitate con un vaccino. Il meningococco C è il batterio più aggressivo, è quello che sentiamo nominare più spesso, ma il B non è da meno. Per entrambe, professore, esiste un vaccino, ma sull'antimeningococco B, che è più giovane, mi passi questo termine, ci sono un pochino più di dubbi e di resistenze da parte dei genitori. Ci fermiamo, ma è subito dopo le informazioni sul traffico, chiediamo al professor Burioni. A tra... Cuore e denari. Professor Burioni, antimeningococco B e antimeningococco C. Quello B spesso ai genitori crea qualche resistenza, ecco, qualche dubbio. Sul C sembrano più tranquilli. Ma questo è giusto, perché il vaccino contro il meningococco C è in uso dal 1999, quindi abbiamo un percorso estremamente, diciamo, esteso, che ne dimostra la grande sicurezza e anche la grande efficacia. Il vaccino contro il meningococco di tipo B è più recente, è di qualche anno fa, di 3-4 anni fa, e quindi è stato somministrato a un numero minore di persone. Tuttavia, i dati che abbiamo fino ad ora ci indicano che questo vaccino è sicuro, e ci indicano anche che tutto fa pensare che sarà molto efficace. Io, mia figlia, con l'antimeningococco B l'ho vaccinata. Ecco, allora anche l'esperienza, anche sì, così, l'esperienza del il confronto tra genitori è utile, soprattutto se un genitore si occupa da quanti anni di vaccini? Ecco, faccio 35. Direi più di 20, ecco. 35. Allora, tra l'altro, sì, a proposito di meningite B, approfitto di questo spazio anche per raccontare l'episodio di cronaca che ha visto protagonista Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma, che in questi anni si è spesa moltissimo per le campagne vaccinali proprio per la meningite B, e in questi giorni, lo avete letto su tutti i giornali, è stata attaccata via web. Una pagina Facebook già rimossa avrebbe invitato a usarle violenza, a renderlo noto il Codacons, che secondo una nota avrebbe denunciato il social network all'autorità giudiziaria, e la stessa Bebe ha denunciato gli autori della pagina dichiarando di essere amareggiata e delusa. Direi, ecco, noi vorrei tornare insieme a Deborah su questo tema, perché è davvero, tocca il cuore, indigna che la rete, proprio perché è democratica, ci permetta di arrivare a questa violenza, che veramente tutte le violenze sono inutili, crudele, certo, deprecabili, ma questa lo è ancora di più. Professor... Mi permetto di unirmi a questa vostra indignazione. Grazie, professor Burioni. Alla prossima. Grazie mille, buona giornata. Arrivederci Nicoletta, arrivederci Deborah. Un fiore in bocca può servire, non ci giurerei, ma dove voli, farfallina? Eh sì, è la, questa piccola farfallina che ci tiene in pugno. Parliamo di tiroide, a volte perde il ritmo, è una ghiandola essenziale per il nostro benessere, per la nostra salute. Ci tiene a volte in pugno quando cambia il passo, perché si mette a lavorare troppo o a lavorare troppo poco, manda dei segnali che spesso sono sfumati, ma la professoressa Fugazzola ci ha aiutato a individuare quelli che potrebbero farci pensare, quindi spingere a fare un controllo. Il controllo è semplice, basta un esame del sangue e basta anche in alcuni casi l'ecografia o entrambi abbinati. Ipo e ipertiroidismo, la tiroide funziona poco, ipotiroidismo. Che cosa, come riusciamo a diagnosticarla? Quali sono gli esami che permettono di così inquadrare la situazione? Allora, l'ipotiroidismo è la patologia tiroidea più frequente, a parte il nodulo tiroideo, quindi è estremamente frequente nella popolazione femminile, soprattutto nella popolazione femminile di età media, ed è generalmente dovuta a una patologia autoimmune che si chiama tiroidite di Hashimoto. Tutti hanno un'amica, una collega, un genitore, un parente che ha la tiroidite di Hashimoto. Questo per indicarvi quanto è frequente questa patologia. La diagnosi è molto semplice. Serve un dosaggio del TSH e degli anticorpi antitiroide, che sono proprio quelli patognomonici e che sono i patogenetici, quelli che determinano questa patologia. Poi ci sono delle alterazioni ecografiche tipiche che ci aiutano ulteriormente nella diagnosi, ma la diagnosi è molto semplice. L'ipotiroidismo. L'ipotiroidismo si può correggere. Sì, certamente. Si assumono degli ormoni. Esatto, si assume lo stesso ormone che la nostra manca. Tiroide smette progressivamente di fare perché è affetta da questa patologia. Non è un farmaco, è un prodotto, lo dico sempre anche ai pazienti. È un prodotto naturale, esattamente lo stesso ormone che fa la nostra tiroide. Si dà nel bambino neonato e si dà all'anziano anzianissimo. Quindi non ha alcun effetto collaterale la terapia con tiroxina. Può essere associata a qualunque altro farmaco di cui il paziente possa aver bisogno nel corso della sua vita. E è molto semplice, a differenza di quello che un po' si sente dire in giro, trovare il dosaggio giusto per il paziente. Insomma, si fa un dosaggio sulla base dell'età e del peso, si fa all'inizio un primo controllo, diciamo a 2 mesi, ma è molto semplice individuare il dosaggio giusto e poi il paziente prosegue con questo dosaggio per tutta la vita. Allora, lei dice che è molto semplice trovare il dosaggio giusto, però quello che arriva anche dai messaggi, evidentemente le persone che prendono il trattamento ormonale sostitutivo non ne sono tanto convinti. L'efficacia allora del trattamento, mi chiedo, può essere compromessa magari da modalità di assunzione non corrette, da altri farmaci oppure anche dalla nostra dieta? È probabile che alcuni alimenti che introduciamo possano in qualche modo ridurre l'efficacia della nostra terapia? Penso, penso ai cibi integrali, ad esempio, che noi sponsorizziamo sempre, ma che magari non sono molto indicati per chi fa uso di questi ormoni. Effettivamente una delle possibilità è proprio questa. Una cosa che frequentemente osserviamo è per esempio l'introduzione, questo paziente che fa da tempo lo stesso dosaggio di terapia con tiroxina e improvvisamente introduce una terapia con inibitori di pompa, questi per problemi ovviamente di reflusso, che è così frequente al giorno d'oggi, diciamo di reflusso gastroesofageo. Ecco, per esempio questi inibitori di pompa o comunque gli antiacidi assunti al mattino insieme alla tiroxina ne inibiscono quasi totalmente l'assorbimento, così come l'assunzione di calcio, per esempio. Donna in post menopausa con osteoporosi, alla quale viene consigliato di assumere calcio e vitamina D, assume il calcio al mattino insieme alla tiroxina, come se la buttasse. Esatto, non viene bene assorbita, quindi ci sono forti interferenze farmacologiche e sicuramente anche nella dieta. È meglio nella dieta evitare l'assunzione di cibi integrali, soia, che interferiscono nell'assorbimento della tiroxina. Allora, 800 24 00 24, continuate a chiamarci, molte persone via WhatsApp lamentano problemi alla pelle, problemi ai capelli, le unghie, ma sarà colpa sempre di questa benedetta tiroide? Ne parliamo tra poco, ma sentiamo Giulia che ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Giulia, per noi donne la tiroide ha un debole particolare, ma attenzione, ci sono anche le quote azzurre, perché... Anche gli uomini hanno la tiroide e anche loro possono dover fare i conti con questa ghiandola. Giulia, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci racconti? Sì, volevo solamente testimoniare la possibilità di vivere tranquillamente, nel mio caso senza tiroide. L'ho dovuta togliere 23 anni fa per un carcinoma papillare. Mi aveva dato, come dicevate giustamente, quindi sono portatrice di verità, un dimagrimento molto molto elevato nel giro di pochissimo tempo e episodi di insonnia notturna consistenti che non appartenevano al mio modo di essere, sì, in questo senso. Successivamente poi una piccola protuberanza a livello della sede tiroidea ha innescato controlli, quindi scintigrafia, ago aspirato, per il quale si è determinato poi di che cosa si trattava con l'intervento. Io però vivo con una terapia sostitutiva di tiroxina da 23 anni, sottoponendomi comunque a controlli biennali che consistono in ecografia al collo, esami del sangue e visita medico nucleare. Giulia ha fatto, ma Giulia è perfetta, professoressa Fogazzola, potrebbe essere libro stampato, quindi si può vivere senza tiroide, sì, sostituendo... E si possono anche fare gravidanze senza tiroide, si può prendere la tiroxina tranquillamente durante tutta la gravidanza, durante tutto l'allattamento, va sempre ricordato che la tiroxina va aumentata proprio già al momento del primo controllo ecografico che conferma la presenza di una vita, e quindi progressivamente si aumenta durante la gravidanza, non ci sono assolutamente alcuni. Tra l'altro, professoressa Fugazzola, intanto ringraziamo Giulia, parlando di gravidanza, le abbiamo ricordato quali sono i segnali della tiroide, abbiamo fatto un elenco di segnali che sono segnali perlomeno di malessere, di disagio, ma è raccomandato un controllo della funzione tiroidea anche alle donne che stanno molto bene, stanno cercando di avere un bambino, ma non riescono ad avere un bambino, stanno bene, hanno capelli bellissimi, pelle straordinaria, si sentono delle leonesse, il bambino non arriva. Attenzione, un controllino della tiroide potrebbe magari chiarire la situazione, perché la tiroide ha a che fare anche con la fertilità. Sì, ha molto a che molto a che fare, con la fertilità. Vi diciamo perché dopo il nostro GR. A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati, il 2 si è ricomposto, siamo qua, tra poco la nostra scuola di risparmio, iniziate a preparare libri e quaderni, esatto. Ma intanto vi voglio concentratissimi, parliamo di una ghiandola oggi che ha molte relazioni anche con la nostra concentrazione, ma non solo, con il nostro rendimento, ma non solo, ma anche con la salute di pelle, capelli, la salute anche il livello della nostra energia e anche la fertilità. Ne stiamo parlando con una grandissima esperta, la professoressa Fugazzola, Viola, che è associato di endocrinologia all'Università di Milano e responsabile del centro tiroide dell'Istituto Oxologico Italiano di Milano. Vi segnalo anche il sito tiroidemilano.it, dove potete trovare tutte le indicazioni e le spiegazioni che oggi, per mancanza di tempo, forse non riusciremo a dare. Eravamo rimasti a un punto molto delicato: le donne che stanno benone ma vogliono avere un bambino e non riescono a realizzare questo sogno di maternità dovrebbero dare una controllatina alla ghiandoletta, perché tra tutte le varie funzioni regola anche, ha a che fare anche con la fertilità. Sì, sicuramente questo è un messaggio giustissimo. Alterazioni anche minime della funzionalità tiroidea, la presenza anche di autoimmunità tiroidea così frequente nella donna, possono avere un impatto sulla fertilità, riducendo, contribuendo a essere magari uno dei tanti fattori che contribuiscono all'infertilità. Non è importante solo per questo motivo, ma anche perché durante la gravidanza delle forme lievi magari di ipotiroidismo vengono slatentizzate, e così succede anche per l'ipertiroidismo. Quindi è sempre importante, prima di una gravidanza programmata, diciamo, controllare la funzionalità tiroidea. È facile, l'abbiamo detto, esame molto del facile. Sangue, ecografia e voilà. Non è così facile invece cercare di recuperare il sonno che i nostri bambini ci fanno perdere, o mettere a posto il nostro sonno. E noi ci attrezziamo, cerchiamo dei rimedi naturali, e tra gli integratori per recuperare il sonno oppure il relax sicuramente va forte la melatonina. Ma quali sono gli effetti a lungo termine di questa, che viene vista e vissuta come una sostanza naturale, ma che è naturale, ma dipende anche un po' dai dosaggi? Lo chiediamo al professor Ferini Strambi, che è in linea con noi proprio al volo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Responsabile del Centro di Medicina del Sonno. Lasci che la presenti, perché per noi è un amico, tutti gli ascoltatori di Cuore Denari la conoscono, ma devo fare la maestrina per bene. Professor Ferini Strambi, melatonina. Beh, sì, la melatonina è una delle sostanze che viene più utilizzata, soprattutto, appunto, citava prima lei, nei bambini che hanno problemi di sonno. Non abbiamo dei dati sulla sicurezza della melatonina a lungo termine nei bambini. Io però dico sempre che, rispetto magari all'utilizzo che si faceva fino a poco tempo fa di antistaminici, che sicuramente comportano dei problemi, soprattutto perché perdono efficacia nel tempo, bisogna aumentare la dose, ecco, la melatonina in questo senso sicuramente è più sicura. Noi lo utilizziamo anche noi nei nostri bambini, cerchiamo di utilizzare però le dosi più basse possibili, quindi 0,5 mg ad esempio. E d'altro canto bisogna sempre ricordare che quando si parla di sonno dei bambini, spesso il problema è dei genitori, che non hanno quella pazienza di aspettare quella fisiologica maturazione dei centri del sonno e della veglia. I bambini spesso basta aspettare magari 2 o 3 mesi, quando questi centri maturano, finalmente si arriva anche magari a una buona ritmicità del sonno e della veglia, quindi è una questione di attesa. Però purtroppo siamo un po' impazienti. Bravo. Siamo... I genitori vanno in ansia, e quindi sicuramente una delle prime cose da fare è cercare di abbassare i livelli di ansia del genitore, appunto spiegando che possono essere situazioni transitorie. Il bambino non ha la stessa ritmicità del sonno veglia che c'è nell'adulto. I periodi di sonno, l'alternanza ad esempio col sonno non REM e il sonno REM nel bambino è diversa rispetto a quello dell'adulto. Il bambino tende magari a risvegliarsi molte più volte, e quindi bisogna cercare di capire che il bambino, il sonno del bambino non è uguale a quello dell'adulto, e che il bambino non può essere considerato un piccolo adulto, ma è un bambino. A proposito di ansia, professor Ferini Strambi, la melatonina lo sappiamo, la prendono anche gli adulti. Subito è arrivato in tempo reale un WhatsApp di un ascoltatore che scrive: ho preso melatonina tutte le sere per un anno, 5 mg, rischio qualcosa. E subito, no, oddio, ma, che no, cosa ecco, ho fatto? Allora, no, professor ecco, Ferini, una battuta, poi torniamo alla tiroide. Allora, in realtà non ci sono grossi rischi, ripeto, non abbiamo studi controllati a lungo termine, però sicuramente c'è una patologia, che ad esempio quella del disturbo comportamentale in sonno REM, questa patologia dove i soggetti sognano di notte e vivono il sogno. Ecco, in questi soggetti noi utilizziamo la melatonina addirittura a dosaggi di 10-12 mg per sera, e noi abbiamo pazienti che la stanno utilizzando da anni e non abbiamo mai, devo dire onestamente, riscontrato alcun tipo di problema. Quindi rasserenatevi, è il caso di dirlo, magari certamente. Anche usando bene la melatonina. Professore, grazie. Speriamo grazie che venga a trovarci tra poco, che così d'accordo ci facciamo una bella puntatona sul sonno e sui disturbi del sonno. Grazie. Buona giornata a tutti. Buongiorno grazie a lei. E buongiorno anche a Massimo della provincia di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Massimo. Buongiorno, è attento, vede? Siamo passati dalla melatonina, tiroide, voilà, eccola. Allora, io soffro di ipo. Di ipo, che vuol dire? Mi piace, io soffro di ipo. Ha sintetizzato, essendo tra esperti, dice tanto capirete di cosa sto parlando. No. Allora, la tiroide è un po' rallentata. La mia tiroide si sta atrofizzando piano piano. Pigrona. Dato che io mi sto ingrazzando a dismisura adesso, perché la visita la devo fare tra 4 mesi. Io prendo 125 mg di Eutirox. Sì. Volevo sapere, perché va dal dosaggio in base al peso sì della persona, dato che io la prendevo quando pesavo 80 kg. È giusto, adesso certo sono arrivato a 97. Certo, potrebbe. Sono giorni che soffro molto il sonno, dormo molto. Ecco, allora, effettivamente, essendo lei aumentato di peso, potrebbe benissimo essere che adesso il dosaggio non è più sufficiente. Allora, c'è un solo sistema per saperlo con precisione: fare un dosaggio del TSH e magari anche della FT4. Se questi fossero nella norma, vuol dire che il dosaggio è giusto di tiroxina che lei sta prendendo. Se invece il TSH è tendenzialmente alto, è necessario fare un aggiustamento di dose. Ricevuto Massimo? Anche poi nel frattempo, se uno magari riesce un po', vuole un po' dimagrire. Certo. Risparmia movimento anche sulle soprattutto negli uomini funziona benissimo, soprattutto negli uomini. Esercizio fisico. Massimo, bisogna darsi anche una mossa, che dice? Ma io prima correvo. Allora, adesso dai, cammini un po' veloce. Massimo, su. Un problema, no, ho fatto un'operazione alla protesi all'anca. Ah. C'è sempre la piscina che si può fare. Non sfugge. Massimo, le alternative ci sono. Un po' di acqua gym, che è divertente, conosce anche tante signore simpatiche. Ci pensi, poi mi dice, io vorrei salutarla, ma chiederle anche di questa cosa di suino che gira che un po' su internet. Sì, effettivamente. Ci si mette anche il maiale. Mi fa piacere parlare di questa cosa perché ultimamente... Così siamo sulla notizia della notizia. Esatto, c'è questa notizia in giro di che utilizzare la tiroide secca di suino è una cosa molto positiva al posto della terapia sostitutiva classica con la tiroxina. Così mette anche in pace tutti quelli che dicono sì, perché i livelli, così le aziende farmaceutiche ci guadagnano. Ecco, questo non va assolutamente fatto, perché la tiroide secca contiene, come tutte le tiroidi, una quantità non solo di tiroxina, che è un ormone inattivo, ma una quantità variabile anche di T3, che è l'ormone attivo. Quindi, a seconda della quantità di questa tiroide secca che c'è dentro la pastiglia, si prendono delle dosi assolutamente variabili di ormone tiroideo, in particolare di ormone tiroideo già direttamente attivo, e quindi non come avviene fisiologicamente di un ormone che viene trasformato in ormone attivo solo a seconda delle necessità dell'organismo. Quando noi siamo malati, per esempio, la tiroxina, che è inattiva, non viene trasformata, viene solo minimamente trasformata in ormone attivo, perché il nostro organismo non è in grado di reggere gli effetti dell'ormone tiroideo. Se noi, quando invece stiamo bene, viene trasformata in ormone attivo a seconda delle necessità. Quindi se noi prendiamo direttamente l'ormone attivo, facciamo una cosa non fisiologica, oltre al fatto che assumere la tiroide secca di suino è una cosa non controllata, è una cosa che si può fare in tempo di guerra, ma non ai giorni ecco nostri. Quindi direi tiroide è assolutamente sconsigliata. Secca di suino non buono. Le pazienti sono favorevoli a questo perché contenendo l'ormone attivo c'è un calo ponderale, ma non è così che bisogna dimagrire, non è prendendo l'ormone tiroideo o le anfetamine. Professoressa Fugazzola, grazie. Così abbiamo detto anche, abbiamo raccontato anche quello che si dice sul web, sui sì, giornali, su queste leggende, le notizie fake, eccetera. Va bene, adesso, adesso allora mi tocca. No, tra l'altro stavo pensando che come al solito posso fare una ottima relazione tra l'argomento della scuola di risparmio e l'argomento di... No, infatti già l'ospite si mette lì e dice ma cosa adesso stai... mi chiedono i valori del che io... No, quello che volevo dire io è che gestire male i propri risparmi provoca insonnia. Le preoccupazioni legate alla gestione del denaro fanno grattacapi, quindi perdita di capelli, condizioni di stress emotivo che naturalmente alterano anche il funzionamento della tiroide. Qua è tutto un legame, non c'è niente da fare. Mia, siamo destinate a portare avanti cuore e denari da qui all'eternità, Nicoletta. Non se so ci se ci arriveremo, tanto con la nostra pensione microscopica dobbiamo ormai integrarla. Sai che le coreane ormai ci stanno quasi battendo. Hai visto sì la longevità, quanto, quanto vivono? E poi, sentito, sì, no? Oltre i 90 anni. E poi hanno anche le creme, perché sai che adesso vanno molto. Andiamo in Corea quest'estate. Sono tutte belle spianate. Io no, non mi vedi un pochino più. Hai una crema coreana e ancora non mi hai dato la il tuo fornitore ufficiale. Allora, eccoci a noi. Parliamo oggi di investimenti. Di nuovo è giovedì e parliamo di investire nei fondi comuni di investimento. Investire in un fondo di investimento equivale sicuramente a fare una scelta di diversificazione, lo diciamo sempre, è la scelta più auspicabile per naturalmente anche diversificare, oltre che le opportunità di investimento, anche tutti i rischi. Però anche il mondo dei fondi, questo ce lo contestate molto spesso, ce lo segnalate molto spesso, è diventato un mondo molto articolato e complesso, spesso e volentieri viene giudicato inefficiente dai sottoscrittori. Ci sono molti detrattori dell'industria del risparmio gestito, meglio i detrattori della cosiddetta gestione attiva, perché spesso si ritiene che i risultati dei fondi non vadano a giustificare i costi che sottostanno alla gestione, ingresso, uscita, costi di gestione stessa, switch quando si vuole passare magari da una linea di investimento ad un'altra. Oltre a tutto questo, il panorama dei fondi è davvero, come dicevamo prima, articolatissimo. Oggi abbiamo una gamma di strumenti sul mercato enorme e se fino a qualche anno fa la rosa si distingueva a malapena in due grandi aree, fondi azionari ed obbligazionari, oggi abbiamo invece una distinzione molto più ampia basata anche sulle strategie di investimento e quindi abbiamo pensato di fare un po' di vademecum ed educazione su questo tema molto ampio ed ecco quello che vi propone oggi la Scuola di Risparmio del giovedì. Investire informati. Nessuna domanda sulla tiroide. Buongiorno e benvenuta ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia, Threadneedle Investment. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie. Al suo battesimo a cuore denari. Contento? Moltissimo. Non vedeva l'ora, non vedevo l'ora. Di parlare, di rispondere alle domande degli ascoltatori sull'universo mondo dei fondi di investimento. Allora, peraltro, stavamo pensando oggi, magari invece di fare il domandone, quello che possiamo fare, Nicoletta, è invitare i nostri ascoltatori, come sempre, ad aprire i loro faldoni dei prospetti informativi, come dire, iniziativa che non vogliamo mai prendere perché metterci su quei documenti equivale naturalmente a farci perdere il sonno in automatico. Però così l'idea è, se avete se pensate di aver fatto una scelta di investimento, stamattina aprite il prospetto del fondo, è invece tutt'altra cosa rispetto a quella che avevate pensato di sottoscrivere, magari raccontatecelo all'800 24 00 24, proveremo a chiarirvi un po' le idee con il nostro ospite di questa mattina. Però siccome Columbia Threadneedle Investment è una società britannica anglosassone, in realtà la prima domanda che voglio fare ad Alessandro Aspesi è se ci porta informazioni di prima mano su Brexit, perché qua noi siamo in attesa di capire se questi se ne vanno, non se ne vanno, e visto che quando hanno fatto la scelta del referendum a giugno hanno mandato in tilt la borsa per una settimana, non vorrei che zitti zitti ci stessero preparando qualche altra sorpresa. Ma devo dire che se dovessi riassumere la situazione attuale nel Regno Unito, direi che ci sono poche idee e anche confuse, in quanto comunque ci sono sia delle pressioni a livello politico affinché la negoziazione di una potenziale uscita del Regno Unito venga fatta in maniera ordinata dalla parte politica, ci sono altresì delle pressioni, soprattutto a livello governativo, invece di portare l'Inghilterra a essere la grande Inghilterra, un po' sulla linea guida che abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli ultimi mesi con le elezioni americane. Quello che possiamo identificare sono principalmente tre scenari. Lo scenario ideale, la cui fattibilità è veramente bassa, è quella che il Regno Unito comunque rimanga nell'Unione Doganale Europea.